camino. Con paso fino dice, con paso fino canta. Con paso fino yo solo bailo con paso fino. ¡Baila! Con paso fino dice, con paso fino canta.